Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno e buona domenica a quanti ci ascoltano. L'avrete riconosciuta, è una musica tradizionale cinese, una musica cinese perché l'ospite di oggi viene dalla Cina, anche se è italiano doc. Buongiorno ad Alberto Forchielli. Buongiorno a lei, grazie mille per questo invito. Alberto Forchielli, da quanti anni in Cina? Dal 94, tanti anni. Cioè, andai prima a Singapore e poi dopo da lì un po' alla volta mi sono mosso verso Hong Kong e poi dopo Shanghai. Quindi Alberto Forchielli che cosa faceva in Italia prima del 94? Lavoravo all'IRI ed ero gli ultimi anni ero responsabile delle privatizzazioni. Ah beh, quindi portata in porto. Ero segretario generale delle privatizzazioni. Ah, complimenti. E quindi come mai a un certo punto ha detto lascio tutto e vado in Cina? Ma leggo molto e già si capiva sulla stampa internazionale, non tanto in Europa, ma io ho studiato in America, avevo famiglia americana, due figli, sono andato a scuola là, insomma si capiva dall'America che l'Asia diventava importante. Beh, quindi il primo passo l'ha fatto dall'Italia all'America? Beh, il primo passo, io nel 79 andai a studiare a Harvard, e mi sono preso un master a Harvard nell'81, poi da lì sono andato in Argentina, poi sono andato in Cile, poi sono andato in Perù, poi sono tornato in America 2 anni, poi sono andato a Londra, poi sono tornato un po' in Italia. Poi a un certo punto... Quanti anni in Italia? No, in Italia sarò stato 6 anni, dall'88 al 94. E poi a un certo punto il salto verso la Cina, ma dopo tutto questo cambiamento in Cina poi ha messo le radici. Sì, perché si sta bene, la gente è molto affettuosa, c'è un grande servizio, incomincia ad avere una certa età, ho 54 anni e la saggezza paga, la gente ti sta a sentire. Beh, quindi parleremo poi di Cina. Io sono curioso di sapere un po' questo passaggio. Nel 94 la Cina era ancora qualcosa di lontano, anche se La Cina è vicina è un film certamente precedente, però era qualcosa che sembrava un po' all'inizio dell'ingresso nella globalizzazione, più una promessa, poi si è dimostrata, soprattutto all'inizio degli anni 2000, di essere una grande potenza capace di sconvolgere un po' anche gli equilibri internazionali. Nel 94 come appariva la Cina? Ah beh, in quegli anni lì per me andare a Shanghai era la Cayenne, cioè allora giravo tutta l'Asia, però io volevo andare a Bangkok, volevo andare a Giacarta, volevo andare a Hong Kong, ma Shanghai era improponibile nel 96. Era ancora un paese. Era già sviluppata, però ci si muoveva male. Quindi ha vissuto da vicino la trasformazione cinese. Sì, completamente diverso. Sì. Io, ragazzi, nel 96 andavo in Cina e avevo gli abiti di Caraceni e loro erano così così. Adesso vado in Cina e loro hanno i vestiti di Zegna, io ce li ho fatti a Shanghai. Quindi... loro hanno le camicie che le vengono a comprare a Milano, io mi faccio fare le camicie al mercatino di Shanghai, tutto ribaltato. È una realtà che appunto, ma come si capiva che era una promessa, di crescita economica, di sviluppo? Quali erano i segni di questa trasformazione? Lavorano di più e lavorano meglio, c'è poco da fare, ossia si vede, hanno fame, hanno patito e lavorano con un'energia straordinaria, ossia. Ma c'è stata anche una scelta politica, una decisione strategica di cambiare, di togliere... Vabbè, certo, ragazzi, fino alla Cina ha sofferto moltissimo fino al 78, quando ci fu... Nel 76 morì Mao e finì di fatto la rivoluzione culturale, che fu un periodo tragico, un periodo di completa paralisi del paese. Poi per 2 anni ci fu un primo ministro fantoccio, Hua Guofeng, che diceva qualunque cosa abbia detto Mao la facciamo, per cui fu una... Poi finalmente Deng Xiaoping riuscì a prendere il potere, appoggiato dall'esercito, dal famoso maresciallo Jili Ling, che per me è un eroe, adesso non lo sto pronunciando bene, ma con Deng Xiaoping si aprì l'economia, incominciò ad essere pragmatico, non importa se il gatto è bianco e nero, diventeremo ricchi, prima ci saranno alcuni che diventeranno più ricchi, poi gli altri seguiranno, e quindi incominciarono ad aprirsi le zone economiche, incominciarono le zone economiche speciali, Shenzhen e via dicendo, poi il paese si aprì gli investimenti stranieri. E con quella voglia di lavorare, il costo del lavoro così basso, un mercato potenziale di 1.300.000.000 di persone, con un minimo di lungimiranza uno poteva capire che ci arrivavano, insomma. Quindi di comunista c'è rimasto solo il nome del partito? Ossia c'è molta proprietà pubblica in Cina ancora, e il mondo politico conta moltissimo, ossia, la politica è veramente soprattutto. Però usano, diciamo, il partito stesso usa dei criteri economici che sono molto, per certi aspetti il paese è molto più aperto e capitalista di quanto sia l'Italia, se non c'è welfare c'è molta minore protezione per i lavoratori, le spese sociali sono molto basse sul PIL, per cui... Però è interessantissimo Chen Yuan, che è il governatore di CDB, che è un mitico banchiere cinese, figlio di Chen Yun, uno degli otto immortali, quelli che fecero che hanno fatto la Cina moderna. In realtà non era Deng Xiaoping, ma erano otto personaggi che hanno vissuto fino a 90 anni. Chen Yun disse, insomma, basta. Quello che è per il comunismo cinese, poi un giorno ve lo raccontiamo quando ci va. Incontri. Bentornati al nostro incontro di oggi. Come sentite, parliamo di Cina, ne parliamo con Alberto Forchielli, un uomo d'affari che ci ha raccontato nella prima parte, dopo aver attraversato un po' tutto il mondo con esperienze negli Stati Uniti, in America del Sud, in Europa, in Italia, era a capo delle privatizzazioni dell'IRI negli anni 90, poi nel 94 ha deciso di fare il grande salto e andare in Cina, dove non è più tornato, torna ogni tanto ovviamente in Italia, ma si è insediato in Cina da ormai 16 anni. Che cosa fa in Cina? Ma in questo momento abbiamo fondato un fondo di private equity e facciamo investimenti in imprese europee che vogliono investire in Cina o imprese cinesi che vogliono investire in Europa. È un fondo di diritto lussemburghese, ma la cosa particolare è stato il primo fondo di private equity straniero in cui le banche cinesi abbiano mai investito. Questo avvenne nel 96. Quindi c'è un'apertura dell'economia cinese, sia sul fronte commerciale, lo sappiamo, ormai i prodotti cinesi sono ormai fanno parte della vita quotidiana, ma c'è anche un'apertura dal punto di vista finanziario, dal punto di vista degli investimenti. Ah beh sì, i cinesi hanno un investimento diretto verso l'estero che è quasi superiore agli investimenti che ricevono, sarà intorno ai 60-70 miliardi di dollari all'anno. No, stanno diventando investitori netti, del resto hanno talmente tanta valuta, hanno talmente tanta liquidità che stanno comprando quello che possono. Quindi sono ormai un partner completo sotto il profilo economico, un partner affidabile, un partner sicuro. Le imprese italiane come si stanno comportando verso la Cina? Beh, bisogna distinguere. Le imprese del lusso, benissimo. Cioè, la gran parte delle nostre imprese di alta gamma ha fatto i bilanci nel 2009-2008, li farà nel 2010, grazie al mercato cinese, che credo che sia diventato il secondo mercato del lusso al mondo, una cosa perché di questo genere. Noi parliamo di 1.300.000.000 di cinesi, se il 10%, forse sono tanti, il 10% fanno... No, ci stanno. Quindi ci sono 130 milioni di cinesi che acquistano beni di lusso. Sì. Oh, ma ragazzi, i nostri beni, adesso non voglio far nomi, ma adesso stiamo aprendo negozi nello Shaanxi, la Shaanxi è la regione del carbone, capito? Mi hanno detto che Bulgari sta aprendo negozi nello Shaanxi, 2 anni fa andai a Chengdu è ai confini del Tibet, dove ci fu il terremoto, c'era un negozio di Chanel che sarà stato lungo 100 metri. Come dire, cioè, in Irpinia in Italia. Ma sì, no, no, ma è una cosa che non ci si può credere. Cioè, quindi, no, devo anche dire che in Cina l'economia sommersa è molto importante, come in Italia, cioè, la gente non piace pagare le tasse, per cui la ricchezza vera, soprattutto la ricchezza dei più ricchi, è molto più alta di quello che dicono le statistiche nazionali. Secondo me, su quel reddito cinese uno ci deve aggiungere un 30% di sommerso. Quindi è un paese comunque che è ancora in crescita tumultuosa. Ma fa il 10% quest'anno. Quali sono le ragioni di fondo? Perché è una crescita comunque che pone anche dei problemi interni, problemi di equilibrio ambientale. Pechino è una delle città più inquinate del mondo, Shanghai ha una densità di popolazione che certamente non rende facile quello che possiamo chiamare la qualità della vita. Comunque è una crescita che continua. Sì, loro pensano di crescere fino al 2020, crescere a un tasso tra l'8 e il 10. Il tasso obiettivo sarebbe l'8, perché all'8 non si crea disoccupazione, ma continua il processo di assorbimento della manodopera delle campagne. Dal 2020 in poi pensano che la crescita si assesterà intorno al 6%, perché lì la popolazione incomincia a invecchiare. Perché con la politica del figlio unico è un paese che demograficamente è destinato ad invecchiare. Quando un paese invecchia, per definizione consuma di meno. Si abbassa la forza lavoro e le più anziane sono le persone, meno consumano. Guardiamo per esempio al Giappone. Ecco, quindi la Cina rischia a medio termine di fare, non dico la fine del Giappone, però di avere anche dei problemi sotto il profilo interno. Comunque resta ugualmente un paese su cui investire. Beh, sì. Sì, perché incomincia ad avere tecnologia, perché hanno un'importante base tecnologica e spendono molto sul PIL. E poi un dollaro cinese non è un euro, ossia con un dollaro fanno molto di più di quello che noi facciamo con un euro. Secondo, perché il partito lo gestisce bene il paese, ossia sanno quello che vogliono, si fissano gli obiettivi, fanno i piani quinquennali, li rispettano, non vanno a zigzag, magari vanno lenti per la direzione quella. Quindi è molto un paese predictable, ok? Hanno certo problemi, uno è l'inquinamento, un secondo grande problema è la mancanza d'acqua, un terzo grande problema è l'autosufficienza agricola, perché i cinesi stanno mettendo ogni anno mettono 16 milioni di macchine sul mercato, stanno creando capacità produttiva per 30 milioni di macchine. Le macchine, come minimo, ci vogliono i parcheggi, ci vogliono le strade, quindi erodono il terreno agricolo che è quello che è vicino alle città proprio. Certo, anche perché la Cina ha anche grandi territori, ma sono desertici. Sono desertici, oppure c'è il grande altipiano del Tibet a 5.000 metri dove non ci puoi fare niente. Ecco, abbiamo parlato di imprese, di imprenditori. Se una persona, un turista, diceva di andare a scoprire la Cina, uno che conosce molto bene la Cina come Alberto Forchielli, cosa gli consiglia di vedere oltre alla Grande Muraglia? Premetto che io, andandoci sempre al lavoro, ho sempre avuto poco tempo di fare il turista, però Xi'an con le statue di terracotta è da vedere, quello è uno spettacolo straordinario. Credo una cosa affascinante, migliaia e migliaia di guerriere, dimensione umana, magnifico. Poi credo che ci sia la zona del sud, lo Yunnan, quella provincia che confina con la Birmania, che sia molto bella, con montagne, foreste, molto selvaggia, credo che sia molto bella. Poi le due grandi città che vale la pena di visitare sostanzialmente sono Shanghai e Pechino, perché tutto è molto rifatto in Cina, di antico c'è rimasto poco. Poi probabilmente la via della seta, passare per lo Xinjiang, la regione del deserto di Gobi, quella è una zona interessante, ma io non l'ho mai visto perché sono talmente preso dai miei viaggi di lavoro che appena posso torno in Italia sostanzialmente. Lavoro che è essenzialmente Shanghai e Hong Kong. Sì, è molto a Pechino, molto Pechino. Perché conta, ossia in Cina Pechino non è solo la capitale politica, ma è anche la capitale dell'alta tecnologia. Sì, a Pechino c'è l'establishment politico che pesa moltissimo e poi c'è anche Silicon Valley. Mentre Shanghai è più la città degli affari, più... Beh, Shanghai è destinata, la città finanziaria a Shanghai è destinata, secondo i piani cinesi, a diventare la capitale finanziaria del mondo nel 2020. Quindi, interpretando questo obiettivo, vuol dire che entro il 2020 lo yuan sarà perfettamente convertibile, sarà perfettamente libero sui mercati di oscillare, i capitali potranno entrare e uscire liberamente. Siamo al 2011, quindi manca poco. Hong Kong resterà come una piccola anomalia. Beh, Hong Kong rimane sempre bella, però è un villaggio rispetto a Shanghai. Veramente la dimensione ormai si vede a occhio nudo. Poi a Shanghai affari non si fanno più. A Hong Kong, affari non si fanno più. Ormai è integrata con la Cina, è meglio andare direttamente. No, uno deve andare in Cina, sì, Hong Kong. Shanghai rimane per le banche, perché in Cina non ti danno il permesso. Cioè Hong Kong rimane per le banche. Hong Kong rimane per le banche, c'è il porto che comunque ha perso moltissimo rispetto ai porti cinesi, non è più il primo porto della Cina ma sarà il quinto, c'è il trading che non aumenta ma forse delle due cala, però la città è abbastanza in declino rispetto a Singapore, un'altra città-stato che è Singapore. Singapore ha saputo creare cose nuove, Hong Kong meno. Ecco, in prospettiva come vede le possibilità di crescita, soprattutto per l'interscambio, per i rapporti economici tra Italia e Cina? Il bene del lusso, abbiamo visto? Noi abbiamo sempre esportato macchinari in Cina, ossia adesso facciamo molto, molto lusso, però il grosso delle esportazioni italiane è sempre stato macchinari. Il problema è che le imprese italiane sono piccole. E per andare in Cina all'inizio esporti, poi alla fine, capito, ti copio la roba, per cui devi andare lì a fartela te, a competere sul prezzo, altrimenti fanno della roba che è quasi come la tua e costa un terzo. Però le imprese, questa, il piccolo non è bello in Cina. Perché copiano ancora, insomma. Copiano, ma sì, il problema è che al 99% si copiano tra di loro. Il problema del copiare in Cina, il fatto che abbiamo fatto delle leggi così draconiane a difesa della proprietà intellettuale, non è che l'abbiano fatte perché gliele abbiamo dette noi di farlo, l'hanno fatto perché il paese vuole crescere, senza innovazione tecnologica non cresce e l'imprenditore cinese non fa molta innovazione perché sa di essere subito copiato e l'innovazione non paga neanche per l'imprenditore cinese, per cui diventeranno grandi difensori della proprietà intellettuale, ma copiano. Però comunque, ecco, difensori della proprietà intellettuale vuol dire che comunque entrano in questo grande ciclo globale in cui anche le regole avranno il loro peso, quindi possiamo pensare a una Cina sempre più integrata nel sistema di mercato? Ah beh, per forza, cioè, la Cina, l'interscambio cinese è più alto del PIL, non c'è un paese come la Cina che abbia bisogno di importare e esportare come la Cina stessa, perché la Cina deve importare tutto ciò di cui ha bisogno eccetto il carbone. E quindi deve riesportare e poter pagare quello che importa. Non è neanche autonomo sul petrolio, ovviamente. Per cui è un paese che è condannato a vivere con il resto del mondo. Però ci vive bene, perché non ha nemici. E quindi si muove liberamente il mondo, si sta integrando, stanno parlando sempre più inglese, ormai si muovono usando le grandi banche internazionali. I cinesi, è venuto l'altro giorno una delegazione cinese a Milano, sono andati a Bulgari, mica gliel'ho detto io. Beh, indubbiamente, però quindi in fondo possiamo dire che resta una grande opportunità con qualche piccolo rischio che si può, conoscendolo, anche evitare. Beh, i rischi ci sono dappertutto, perché se un cinese sbarca in Italia da solo senza la protezione della sua comunità viene, lo facciamo secco subito anche noi, capito? Non è che noi siamo degli stinchi di santo. Certo, io quello che consiglio alle imprese italiane è quello di far entrare azionisti cinesi, far entrare il capitale, usare sistemi diversi. Per quello ho fatto questo fondo. E quindi Alberto Forchieri resterà ancora a lungo in Cina? Più divento vecchio, più ci sto meglio. Grazie ad Alberto Forchieri di averci fatto compagnia in questa domenica, grazie a Roberto Scaltritti in regia, da Dita Panizza in redazione. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica a tutti.